pero la verdad no sabemos qué piensan, qué están pensando, algo de las mujeres que se quedaron o nada más vinieron a ver cómo están los zapatitos. La verdad no, no pasamos en sus corazones y sus pensamientos, ¿sí? El objetivo que tenemos es ese, que ustedes organicen para que ya no haya más muerte, para que no haya non más sappiamo cosa c'era nella mente di chi è venuto in a questo incontro. L'obiettivo era di fare in modo che vi organizzaste affinché non ci fossero più morte, che non ci fossero più violenze per le strade, che non ci fosse più disuguaglianza. Questo è quello che vogliamo. Non possiamo essere nei vostri pensieri. Per questo abbiamo preparato tutto in 5 mesi circa, preparando lo spazio dove potrete discutere, pensare, ragionare, per dare uno spazio in cui voi potete ragionare, come voi potete ragionare sulla violenza maschile contro le donne. A ver si ustedes cómo lo van a organizar, cómo lo van a discutir allá en las mesas. Perché avete deciso di modificare la forma con la quale avevate invece chiamato il primo incontro? Perché nel primo incontro voi siete stati presenti in tutti i tavoli di discussione, avete organizzato gli incontri. Perché invece qui, in questo incontro, avete deciso di non seguire la stessa organizzazione, di non partecipare direttamente? Lo dico nuovamente, l'abbiamo deciso di modificarlo perché non so se qualcuno di voi ha partecipato al primo incontro e voi sapete che ciascun incontro ha bisogno di un tempo e noi non sapevamo che cosa avevate fatto nel periodo intercorso tra il primo e questo secondo incontro. Sono passati quasi 2 anni. Non sapevamo se avevate lavorato o meno, perché è vero che noi stiamo ancora ascoltando e stiamo facendo arrivare il nostro messaggio. E perché leggiamo ogni giorno di donne che vengono uccise, che vengono minacciate, scomparse. Per questo ci siamo accorte che qualcosa non aveva funzionato. Ci siamo chieste cosa stesse succedendo. Che fine avevano fatto le donne che avevano partecipato al primo incontro? Volevamo sapere se stavate lavorando, se stavano lavorando o se invece in qualche modo si erano fermate. Per questo abbiamo organizzato questo secondo incontro, lasciando la possibilità a voi di organizzare i singoli tavoli e soprattutto organizzando solo sul tema della violenza contro le donne. E quale sarebbe il messaggio che voi volete mandare alle donne che hanno partecipato, che lottano? Noi non diremo niente da parte nostra, ma possiamo dire solo che voi dovete dire come vi organizzerete, come porterete il vostro messaggio, come costruirete il modo di portare il messaggio. Come facciamo noi, diciamo, nel nostro quotidiano? Poco a poco abbiamo iniziato a parlare con le altre donne, chiedendo loro come stavano seguendo il loro lavoro, come stavano vivendo l'episodio di violenza. E in questo modo, lavorando insieme, abbiamo pensato anche a come difenderci. E così deve essere anche per tutte voi altre. Dovete organizzarvi. Anche io ho una domanda per voi, voglio sapere se anche in ciascuno dei vostri paesi la violenza contro le donne è così, così forte, cioè se uccidono anche da voi le donne. Molte persone, molti genitori stanno soffrendo anche, raccontano appunto delle scomparse, escono e poi non trovano più a casa. países donde es más que otros. Sí, porque mucho se llega pues la noticia aquí que hay muchas mamá y papá que están sufriendo de tristeza. Se desaparece su hijo o su hija. Spesso succede nelle case. Però perché? Perché succede questo? Perché la società è malata. Gli uomini, molti uomini vedono le donne come un oggetto di possesso. E se le donne non si comportano come loro chiedono che si comportino, in Francia per esempio muore una donna ogni 2 giorni, uccisa dal suo compagno o dal suo ex compagno, quindi quello sto succede spesso nelle coppie. Spesso quando uccidono le donne è perché vengono lasciati. Hanno deciso di fuggire perché sono state maltrattate. Gli uomini non sopportano questa situazione. Per questo preferiscono ucciderle piuttosto che lasciarle vivere senza di loro. Quindi questo succede per esempio in Francia, che è il nostro paese. E molte volte quando matano le donne è perché los dejaron, decidieron huir porque estaban maltratadas, porque estaban mal en su pareja, y los hombres no soportan porque piensan que es su propiedad, ¿no? Y entonces prefieren matar a la mujer que dejarla libre, ¿no? Entonces ese proceso muchas veces estamos tratando de trabajar. Sí, antes habían pasado también en nuestros municipios. Pero como se empezó la organización, pues empezamos a formar autoridad en local. Noi per esempio ci siamo organizzate, ci abbiamo formato un comitato. Abbiamo formato 10 autorità che si occupano delle questioni che riguardano noi compagni e le compagne. E per questo noi, appunto, le compagne zapatiste hanno le loro autorità, cioè ciascuna compagna sa che può far riferimento a una propria autorità. Se un uomo si fa violenza contro una donna riceve una forma di punizione in qualche modo. Per esempio, a seconda del tipo di lavoro che si deve fare, lo mandiamo a costruire una casa, può essere nello stesso municipio o anche in un altro spazio, in un altro territorio. Per esempio deve fare lavori pesanti. A seconda della gravità del delitto, l'uomo e quello che succede con la giustizia, diciamo, capitalista, è che spesso le autorità sono complici in questo. Quindi, mentre le donne sono accompagnate da gruppi, anche leggi che in qualche modo le tutelano, però è lo Stato stesso che poi le abbandona. Non c'è un accompagnamento della donna. Per questo noi invece siamo contro questo sistema di giustizia. Non crediamo nella giustizia che prevede per esempio il pagamento in denaro, perché in quel sistema tu come donna non puoi denunciare. Per questo pensiamo che anche gli uomini debbano lottare per questa ingiustizia. Noi abbiamo organizzato dei comitati, dei gruppi fatti da 10 uomini e 10 donne che giudicano, che valutano queste situazioni. Però non c'è nessun risarcimento in denaro in questi casi. Noi lavoriamo così, stiamo lavorando così. Anche voi dovete organizzarsi, anche lentamente. Grazie.